Dall'8 al 13 maggio c'è la Festa d'Europa, che è un'iniziativa appunto unica in Italia, promossa dal Tavolo Europa del Comune di Bologna, quindi Festa dell'Europa 2025. È una settimana ricca di eventi, di incontri, laboratori dedicati alla cittadinanza europea, all'inclusione e comunque alla sostenibilità, e io sono qui a parlarne con l'organizzatore, appunto, Paolo Rioli. Piacere a tutti gli ascoltatori, Paolo Rioli, Movimento Federalista Europeo. Volevo chiederti, appunto, l'incontro del 9 maggio alle 18:30, con che spirito nasce? L'incontro di tutta la festa è una rassegna che parla di Europa che vogliamo che non c'è. Qui a Bologna abbiamo fatto qualcosa in più. Ci sono ben oltre 50 associazioni che attorno alla volontà del Comune di Bologna si sono organizzate fin dal 6 aprile, prima in piazza, poi facendo una festa dell'Europa che è dall'8 al 13. Il 9 sarà il clou. Vorrà essere dal pomeriggio alla sera del 9, ma anche l'8, il 10, un punto d'incontro per tutti i cittadini, a centinaia, a migliaia, speriamo di accogliervi. Quindi l'appuntamento alle 18 e 18:30 con due iniziative. Prima la presentazione, poi l'Europa giovane, dal pensiero mazziniano ai nostri giorni con Spinelli e chi altri. Esatto, e da segnalare anche poi l'evento, appunto, Musica Jazz dal vivo, che è un evento gratuito, come tutti gli eventi, sono eventi gratuiti, appunto, aperto a tutti i cittadini e cittadine. Esatto, al termine della conferenza e incontro con i cittadini, alle 20:30 ci sarà questa Musica Jazz aperta a tutta la cittadinanza con autori europei. L'importante è questo, è esserci, perché esserci vuol dire essere cittadini europei. L'Europa non cade dal cielo, ma va costruita giorno per giorno. Tra i tanti eventi, anche sì. Il 9 maggio dalle 18 alle 18:30 appunto ci sarà l'evento di apertura. Interverrà appunto Annalisa Boni, assessore comune di Bologna, con la quale tra l'altro sono qui a parlarne. Volevo chiedere su quale onda, comunque, lo spirito con la quale nasce appunto questa festa dell'Europa, il messaggio che vuole lanciare, l'obiettivo. Allora, l'obiettivo è proprio quello di creare un punto di riferimento per tutta la cittadinanza e invitare tutti quanti a far parte di questo momento di celebrazione, perché comunque dobbiamo dare peso all'Europa. Se vogliamo influenzarla dobbiamo innanzitutto capirla, comprenderla, capire cos'è la cittadinanza europea. Noi siamo italiani, innanzitutto bolognesi, ma anche europei, e quindi avere dei momenti di dibattito, parlare di Europa è fondamentale, perché altrimenti non potremo mai dire l'Europa fa questo e non siamo d'accordo. Dobbiamo farne parte, dobbiamo aumentare gli strumenti democratici che ci permettano di dire la nostra su quella che è l'Europa e su quello che deve fare, su quello che può fare. E quindi momenti come questi, che sono stati organizzati per la prima volta dal Tavolo Europa, che abbiamo creato da pochissimo e che ha deciso appunto di mettersi insieme per in qualche modo veramente creare questo dibattito. L'Europa parte dalle nostre comunità, deve ripartire dalle nostre case, dalle nostre scuole, dai nostri centri comunitari, da tutto quello che è la società della nostra città, dei nostri territori, e solo così creeremo l'Europa che vogliamo.